America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. The president has known about all of this for nearly three weeks. Still, Spicer says it was yesterday when the president finally lost confidence in Flynn. Il presidente Donald Trump sapeva che Michael Flynn era stato interrogato dall'FBI e che rischiava di essere in violazione delle normali procedure di riservatezza già da tre settimane. È stato immediatamente dopo l'ingresso alla Casa Bianca che l'FBI ha cominciato a intervistare Flynn, e a questo punto ci sono dei problemi che vanno al di là delle dimissioni dall'ufficio del National Security Council, perché se Flynn dovesse aver mentito con l'FBI, allora a quel punto rischia anche ad avere dei problemi di procedure legali. Comunque sia, a questo punto si guarda in avanti. Chi sarà il sostituto di Flynn? Per ora c'è Kit Kellogg, che è un altro generale in pensione, una soluzione temporanea. Però Trump, si deve scegliere un professional vero, perché alla fine questo signor Flynn si è rivelato un vero problema per il presidente. Adesso mi ricordo parecchio tempo fa, diciamo due o tre settimane fa, avevo detto come queste persone che alla Casa Bianca sono molto molto vicine al presidente e che avevano ancora una marcia però più elettorale che di governo, erano un problema per Trump, non lo aiutavano, lo danneggiavano, e Flynn direi ne è l'esempio lampante. A questo punto ci sono due nomi che prevalgono. Uno sarebbe straordinariamente importante per il presidente, cioè David Petraeus, ex capo della CIA, ex generale, uno dei personaggi di maggiore esperienza, credibilità che possono esserci in questo momento sul mercato. Tra l'altro la statura di Petraeus consentirebbe di tenere sotto controllo le possibili intrusioni di Stephen Bannon, l'altro potente consigliere del presidente, diciamo quello che faceva parte del cosiddetto cerchio magico: Bannon, Flynn, la Kellyanne Conway e poi Spicer. A questo punto Bannon, esponente dell'alt-right, che tra l'altro è stato incluso nel consiglio nel National Security Council, non potrebbe fare il bello e il brutto tempo come magari faceva con un personaggio, diciamo, a lui in qualche modo sottoposto come era Michael Flynn. Ecco, c'è un problema che Petraeus ha due mesi prima di uscire da un periodo di bando da incarichi pubblici, perché non so se lo ricordate, ma tempo fa, un paio d'anni fa, era emerso che aveva dato segreti di Stato a una sua ex amante. Fu uno scandalo, devo dire, straordinario, incredibile. Nessuno immaginava che un uomo tutto d'un pezzo come Petraeus potesse scivolare su una stupidaggine di questo genere. Ecco, e invece così capitò. L'altro personaggio in corsa è Robert Howard, grande esperienza nel Consiglio perché ci ha lavorato durante l'amministrazione Bush, un vice ammiraglio, un uomo che conosce molto bene gli affari internazionali. Ecco, questo passaggio non è un passaggio da poco, perché, come dire, significa che c'è un cambiamento forte all'interno della Casa Bianca. Questo ci porta, secondo me, a che cosa? Al fatto che stiamo osservando, secondo me, una learning curve, una curva di apprendimento piuttosto ripida nell'apprendistato di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti d'America. Insomma, si accorge Trump che ci sono problemi, che si devono affrontare magari in modo diverso rispetto a quello che immaginava, e devo dire che qualcosa sta già cambiando, perché il sacrificio del suo ex fedelissimo Michael Flynn è soltanto l'ultimo di una serie di episodi che dimostrano come uno dei presidenti più imprevedibili che il paese abbia mai avuto capisca l'importanza di modificare posizioni, soprattutto in politica estera, e fino a ieri certe sue posizioni erano dirompenti sul piano della storia. E resta però un interrogativo di fondo: è solo flip-flop, come faceva in campagna elettorale, oggi sì, domani no, poi viceversa, oppure si tratta di cambiamenti più strutturali e di medio termine? Ecco, io devo dire che chi lo conosce, ho parlato con parecchia gente a Washington che è molto vicina a lui, ci racconta che certe brusche, inattese virate sulla Cina, su Israele, sulla Russia, ma anche sulla NATO, sul NAFTA, l'abbiamo visto l'altro giorno nell'incontro col primo ministro canadese Justin Trudeau, non sono il frutto dell'improvvisazione, ma del prevalere di una linea della continuità su certe questioni centrali in politica estera americana. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu arrived in Washington Monday night ahead of a critical summit with President Donald Trump. Arriva invece Bibi Netanyahu. Anche lì c'è stato un cambiamento improvviso di rotta. Lo ricorderete, aveva nominato come ambasciatore il suo amico e fundraiser David Friedman, che voleva portare l'ambasciata a Gerusalemme, cosa che avrebbe irritato oltremodo il mondo arabo. E poi dava carta bianca a Netanyahu per proseguire con gli insediamenti, metteva in dubbio la soluzione a due stati e così via, così via. Improvvisamente, una decina di giorni fa, Donald Trump dà un avvertimento a Netanyahu: basta con gli insediamenti, non aiutano il processo di pace. Ecco, credo che Netanyahu sarà rimasto esterrefatto. D'altra parte non è che può comportarsi con Trump come si comportava con Obama, dovrà fare buon viso a cattivo gioco. It's the first contact between a president-elect or a president and a Taiwanese leader since 1979, when President Jimmy Carter adopted a one-China policy. And ecco, lo stesso con la Cina. Ricordate la chiamata di Trump al presidente di Taiwan, una provocazione senza precedenti nei confronti di Pechino. E poi diceva che la one-China policy, la politica della Cina unica, non era necessariamente una priorità. Tutto archiviato, è bastata una telefonata con Xi Jinping ed ecco che è rientrato Donald Trump sui binari della One China Policy, che fa da ombrello a tutto il resto, quindi normalizzazione anche con la Cina. Altro voltafaccia con la Russia, dopo le aperture solo a favore di Mosca per eliminazione delle sanzioni, per instaurare un buon rapporto con Vladimir Putin. Ecco, poi Trump ha preso le distanze e poi lo schieramento segreto di missili cruise da parte della Russia, di cui abbiamo appreso ieri, tra l'altro uno schieramento che è contro gli accordi per il disarmo, deve aver colpito, secondo me, Trump, perché dice: ma come, cerchiamo di stabilire un dialogo a distanza e tu mi schieri illegalmente dei missili. Dunque Trump in qualche modo forse ha capito qual è il vero volto del leader russo. Ecco, non è una coincidenza, e questo è il ragionamento di fondo, che questi cambiamenti siano maturati in parallelo ai problemi del capo per la sicurezza nazionale Flynn. Era stato Flynn, ad esempio, con un falco del calibro di Roger Bolton, a ispirare la telefonata a Taiwan. È stato lui a ispirare l'apertura a Mosca, a Israele e della linea dura contro la Cina. Insomma, Stephen Bannon, Kelly Wayne Conway, Sean Spicer seguivano. Per loro si trattava di continuare con le promesse elettorali, di coltivare la base che li ha portati alla Casa Bianca e di non preoccuparsi troppo di quella che era la vecchia linea politica degli Stati Uniti d'America. Qua si ritorna a una continuità storica, e a questo punto col cerchio magico spezzato, Bannon è più debole, soprattutto se al National Security Council arriverà, come vi dicevo prima, Petraeus e non un tirapiedi come Flynn. Si aggiunga, secondo me, che Trump adora essere pater familias, a casa, coi figli, con gli amici, insomma è molto molto patriarcale. E devo dire, lo si è visto quando, dopo il lancio del missile della Corea del Nord, ha detto, cambiando di nuovo tono rispetto a qualche settimana fa quando minacciava di rompere alcuni rapporti con Tokyo, ha detto ad Abe direttamente: saremo al 100% dietro il Giappone, al 100%. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Dedichiamola a David Bowie, Changes, molti cambiamenti sia nella politica che nell'amministrazione Trump. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strange. Changes. Wanna be a richer man? Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Thou may change me, but I can't trace time. Ooh, yeah. I watch the ripple change the sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where's your shame? Your left is up to her next to it. Thou may change me, but you can't twist time. Strange. Fascination, fascinating me. Oh, change.